Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, avvocato? No, ma perché, avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli scherzi cretini e di cattivo gusto. Lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so. Ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Che squallore d'uomo che sei. Scusami. Alla festa lì con Ciccio Formaggio, il puttaniere che va cinese. Mamma mia, che schifo. Ma quando ti guardi allo specchio non provi un senso di repulsione. Mamma mia, che schifo. Cruciani, non fare il grande, sei un servo di merda, servo. Cruciani, antro culo e suca, salute Catanzaro, antro culo. Se non mi sentite, datemi un segnale che capisco che c'è qualcosa che non va nella nostra diretta streaming. Benissimo. Mi state sentendo. Dall'altra parte dell'oceano è la festa dell'indipendenza, quindi ci tengo a far arrivare il mio e il vostro saluto. Greetings from me and from this square to the American people and their president Donald Trump for the Independence Day. All lives matter. Long live freedom. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. È tutto razzista. Razzista Colombo, razzista il gioco degli scacchi, via col vento, la sirenetta di Copenaghen, tutto razzista. O forse l'unico vero razzismo è l'ignoranza che alberga nelle menti di questi poveracci. Imagine all the people living for today. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Se potete chiamare i carabinieri, ci sarà qualcuno all'ascolto? Forse dovremmo avere in video collegamento il professor Meluzzi. Noi. Beh, caro David, so che speravi di non vedermi qui. Di non vedermi qui presente, presente sulla, no, al centro dello spettacolo. So che dentro di te volevi non vedermi, no, non vedermi vivo, per carità, ma non vedermi qui presente, no? Per quella, la famosa legge del contrappasso, che in questo caso non c'entra un cazzo. Sì o no? Confessalo che non volevi vedermi qui. Dillo, dillo chiaramente. Io, care amiche, cari amici della Zanzara, compagni e compagni all'ascolto, noi. David al secolo Parenzo, capo della chiesa autocefala, sti cazzi, non ho altre domande. Mettiamo in fila i fatti e chiudiamo la trasmissione. Hai partecipato a una cena con più di 100 persone nel Veneto, nel ricco Veneto, a scrocco, a casa di un imprenditore. Che casa, all'aperto. Uno di questi si è poi scoperto essere un signore. che sta contagiando mezzo Veneto. Ma che contagiando mezzo Veneto? Alla cena c'erano nell'ordine tale Gio Formaggio, già sindaco di un comune chiamato Albettone, in cui si voleva realizzare una pista da sci. Poi il signor Alberto Gottardo, che si è distinto nel corso del lockdown per aver sostenuto che quella era solo una banale influenza. In tutto questo circo che ti sei portato dietro, stai contribuendo a distruggere una delle regioni più produttive d'Italia, costringendo il governatore di quella regione a inasprire le pene. Mi chiedo, come fai ancora a condurre alle 19:38 nell'orario di massimo ascolto nella radio degli imprenditori italiani, tu che stai distruggendo come un tore questo paese? Sei è la falsificazione della realtà. Posso dire che sei peggio di Gad Lerner? Cioè, perché almeno quello scrive una serie di cazzate. Scrive una serie di cazzate, però, come dire, sappiamo che è Gad Lerner. Invece tu, che dovresti essere un po' più equilibrato. I mostri. Era una cena di mostri. Io, a parte che a cena con il sindaco, con Gio Formaggio, dici, ex sindaco di Albettone, eccetera, vabbè, condannato per reati di istigazione all'odice, non mi siederei. Tu sono, sei andato miei, lì, ma cosa... Ma quelli sono cazzi. Avevi miei. Bisogno di mangiare, te lo davo, ma no, io da mangiare. Andavi, no, da mio, allora, padre, ragazzi, a padre, mettiamo, ti davo da mangiare. Mettiamo in fila le cose. Allora, mettiamo in fila le cose. Non ho incrociato, no, perché questo è veramente per importante. Per fortuna non siete morti di fama, perché non siete morti. No, ma aspetta, fermo lì. Allora. Ma sei un criminale. Ma non dire cazzate. Sei un criminale. Allora. Hai distrutto il Veneto. Hai distrutto la locomotiva d'Italia. Ma non ho distrutto nulla. Ci sono sei stati un dopo quella cena. E dopo, per causa di quello là, ci sono solo 5 contagiati. Ma non dire cazzate, non dire cazzate. Allora, non ho incrociato. Non ho incrociato l'imprenditore. Mettiamo le cose in chiaro una volta per tutte, perché sennò sembra che stiamo folleggiando. Qui stiamo solo scherzando, ci sono cose molto serie. Non ho incrociato questo imprenditore di Poiana che ha preso il Covid in Serbia e poi lo ha portato in Italia, perché non è questione del peraltro Covid. Peraltro, il serbo è morto. Quindi vabbè, no, l'imprenditore stesso sta malissimo, poveretto. Bisogna fargli un fermo. Ma l'irresponsabile sei tu. No, l'irresponsabile è lui che girava con 38 di febbre, mica io, che cazzo dici? Il problema non è il Covid, il problema è che quello... Vai alle cene assembramento. Ma alle quale cene assembramento? Ma non dire cazzate, non dire cazzate. Sono è andato quello via. Che diceva, fermo. È tutto finito. Sono è andato tutto via, finito. Certo che è tutto finito. Zangrillo, Zangrillo fermo. Ha detto tutto sono finito. Certo, basta stare attenti e uno non succede nulla. Basta che non ci sia uno che viene dalla Serbia e con 38 di febbre non va in giro, perché il problema non è il ritorno del coronavirus. Il problema è che c'è un tizio che viene dalla Serbia, prende il coronavirus e con 38 va in giro e rifiuta pure il ricovero. Che cazzo però, dici? Dai, non dire però stronzate. Però tu mettiti nei panni di chi legge la notizia. Uno vede Gio Formaggio, Cruciani e Gottardo, sì, e ha già capito la storia. Vai, a me è bastato vedere quel titolo per capire, ecco, questo insieme di mostri al titolo, bravo, messi tutti fermati insieme. Al allora, sono andato via prima che arrivasse questo. È come se tu entri in un ristorante all'aperto, tra l'altro, e poco prima è andato via uno che poi si viene a sapere che ha il Covid. Per cui no, di che cazzo stiamo parlando? Ma tu eri a quella cena là? Certo, assolutamente, sì, ma lo rivendico. Comunque, ma uno non può andare a una cena all'aperto, è proibito, non è proibito da nessuna legge. Non rompere i coglioni con queste cose. Non è proibito da nessuno, chiaro? Non è proibito da nessuna legge. Era un assembramento. Ma non dire stronzate. Era un assembramento. Allora, fermo. Dunque, da parte mia problemi zero. Gio Formaggio negativo al tampone, eppure ha parlato, pare, per una decina di minuti quando io ero andato no, via sarà negativo con questo al signore. Sarà negativo al tampone, ma è positivo alle stronzate che ha detto. Vabbè, in vent'anni. Sarà e quello non si discorso. Va a cena con questa gente, non si va. Ma vai a guarda fare che il culo. Brutta io figura. Io vado fai. Con chi cazzo mi pare a cena. Vado con Formaggio, vado con gente di sinistra, di destra, di centro, non me ne brutta frega un cazzo. Figura, brutta detto figura, questo, come sai, è qui la parte seria. Io ho fatto nella giornata di sabato, scrupolosamente, secondo, come dire, anche indicazioni aziendali, ho fatto tranquillamente un tampone e un test sierologico, risultati entrambi negativi. Negativi. Dunque sono cosa? No, ma cosa? È la realtà. Cosa? Cioè, un tampone cosa? E un test sierologico di quelli seri. Fatti in un ospedale famoso di Milano che chiamasi San Raffaele di Milano. No, ma lascia perdere, che c'entra? E allora tutto torna a questo punto, cosa, cari amici. Tutto torna? Cosa vuol dire? Potevo tutto farlo a Zacco, torna. A San Raffaele, potevo farlo ovunque. Guardate che c'entra? Che ospedale giù, ha scelto? Giù il microfono, che questa è seria, questa è una cosa seria. Adesso non è che possiamo ridurla solamente a burletta. Allora, ho fatto questi tamponi, un tampone e il sierologico. Sono negativo, di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Non sono al centro di nessun giallo, male. Se uno poi scrive cazzate, come ha scritto quello che dovrebbe essere il principe delle notizie corrette, si picca di essere, chiamasi Gad Lerner, a me non frega un cazzo, non lo legge nessuno, non frega un cazzo a nessuno, a Confindustria, siccome lui dice che io sono il paladino della nuova linea di Confindustria, non frega un cazzo di quello che scrive, l'ho saputo oggi, me l'hanno detto, a noi di quello che scrive il signor Lerner non ce ne frega un cazzo, questo è chiaro, non posso dire chi me l'ha detto, ma è così, non gliene frega un cazzo del fatto che uno scrive sul Fatto Quotidiano delle cose contro Confindustria e contro il sottoscritto, ma sì, capito? Ma no, non frega un cazzo quello... a nessuno, la cosa, chiaro? La cosa grave, no, ma infatti quello benissimo. Non c'entra niente. Nicola Porro sul Veneto, vai, Nicola Porro sul Veneto. Torna il virus, gli errori di Zaia, dice il virologo Crisanti, l'apertura della stampa, la smetta di prendersela con i cittadini, poi che altro succede? Zaia stesso, il carcere agli untori, sapete cosa è successo? Lo volete sapere cosa è successo? Che noi stiamo morendo di fame e qua ci abbiamo falle in Veneto, è ritornato il virus, eccetera, 5 contagi. 5! 5 positivi, porca miseria, 5 positivi sono l'apertura di tutti i giornali, 5 positivi, di cui un cretino, perché se uno ha una polmonite e gira per la città è un cretino, coronavirus o non coronavirus? È ritornato niente in Veneto, ci sono 5 contagi, 5 positivi e 86 persone in isolamento semplicemente per vedere se se lo sono preso. Però di fondo poi è quello che ha detto pure Zaia, non è tornato niente in Veneto, dunque grande allarme, grande panico, il ritorno, i focolai, la distruzione, sì, pochi contagi, lo stesso Zaia ha detto non è tornato avete niente, fatto c'è un cretino, un no, c'è avete un cretino che girava per il Veneto per qualche giorno, nonostante avesse la febbre, ha rifiutato l'ospedalizzazione, ha rifiutato il ricovero, ma di che parlate? Cioè, siccome c'è un pazzo, se c'è un pazzo, forse quello è un pazzo, non lo so perché adesso poveraccio sta intubato, lo abbracciamo e speriamo che si salvi, dunque lo definisco pazzo perché dai suoi comportamenti mi sembra un irresponsabile, mi sembra, anche se poi il figlio dice che in realtà è stato a casa, non è uscito quando ha rifiutato il ricovero in ospedale, ma lascia perdere, queste sono dinamiche probabilmente di difesa perché è stato denunciato, ma non lo so, dico, in sì, ogni caso certo, ti dico in ogni caso che il pazzo, ma uno può finire a una cena con Gio Formaggio, ma che vuol dire? La questione di fondo dire? È anche questa, ma che vuol dire? Sembrava il titolo di un giornale, Paperino, senti, sullo spazio, senti, Topolino sulla dire, luna, se io dovessi dai. Dire quante, con chi vai a cena te? Con chi ma sei stato, guarda, a cena tu? Con gente anche condannata, nell'armadio. Con gente anche condannata per reati gravi, per reati gravi, per reati gravi, ex militari importanti, condannati per reati ex gravi. Lo sai benissimo. Militari. Sei stato a cena militari. Con gente condannata. Ma io per me innocenti, ma condannati. Di che parliamo? Per motivi giornalistici, per fare interviste, per ridere, non anche per scherzare, scroccare pranzi e cene. Fermola. Vergognati. Raga, da quando il mio ragazzo ascolta Cruciani mi lecca sempre i piedi. Hai visto la nuova Fiat 500X Sport? Nuovo colore grigio opaco, nuovi cerchi da 19 pollici, nuovo assetto sportivo. Ma non era un SUV? Nuova 500X Sport, totalmente SUV, totalmente sport. Gamma 500X con zero anticipo e zero rate nel 2020. E poi da 14.700 euro oltre oneri finanziari con finanziamento anziché 16.400 euro. TAN 685 TAI GOT 51, offerta FCA Bank soggetta ad approvazione fino al 31 luglio, info su fiat.it. Le concessionarie Fiat sono aperte e ti aspettano in tutta sicurezza. La Zanzara. La qualità dell'audio è pessima. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Menagramo d'un menagramo. Vai a finire da vaccomannare il suo pezzinanetto, tutto gioccato come una bottana, tutto gioccato come una bottana, pare una polla consata alla sette, tutto teso, ma poi chi minchia mance, che se non giocato che pare un po', ecco, pare che t'ama a scannare, ma perché un terone non è regolata, mettete a dieta ferrea, tua moglie era incinta, ne che tu sei incinto, cosa è inutile, vieni mangiare come chi sa ne che si è fatto una abdomiera. Discutiamo in palestra, discutiamo, parliamo. Poi venite in uno spogliatoio, tu e Casalino, e vai tacca a fottare. Cioè, è più grave frequentare Casalino in palestra o andare a una cena all'aperto con Gio Formaggio? Vorrei porre anche questa questione. Beh, sì. Amico mio, cos'è più grave? Cos'è più grave? Parlare, fare cheek to cheek, ma non per motivi sessuali, per carità, non mi azzarderei mai. Male. No, la stai è più male grave perché... frequentare il portavoce del Premier e fare cheek to cheek in palestra. Caro. Quanti chili sei diminuito? Caro. Quanto hai preso? Caro. Cosa mangi, non cosa non mangi? Ecco i cattivoni che ce l'hanno col Premier. Oppure andare ad una cena con il signor Gio Formaggio insieme ad altre persone all'aperto a Vicenza, posto dove è covid free, Veneto covid free, covid free secondo il governatore. Il casino non l'ho fatto scoppiare io, il casino l'ho fatto scoppiare un pazzo che dalla Serbia andava in giro con 38 di febbre, non dire cazzate. E che guarda caso si trovava lì con te. Ma che c'è, ma io non ho mai visto, non ho mai incrociato, non so chi sia, al contrario di quello che può sperare il signor Gandler. Io in quei casini non ma mi ci ritrovo mai. Primo, perdere, secondo, nella certo, mia palestra stai tombato, ci sono sempre stai andato. Stai tombato a Roma. Io per fortuna mi prendo le mie libertà. Vado a una cena con un centinaio di persone all'aperto. Ma informati, ma non rompere i coglioni. Ma non me ne frega niente di chi c'è. Lo sapevo benissimo sei chi c'era. Sei un personaggio pubblico. Ma cosa sei un personaggio pubblico. Ma di che parli? Quello non sapeva di essere contagiato, rincoglionito. Vergognati, vergognati di quello che fai. Ah, non dire cazzate, dai. Io peraltro in quella palestra ci vado a prescindere, manco allora, sapevo che ci fosse grave, lui. È più grave, è più grave frequentare, per me puoi fare quello che vuoi, ma per è più caso, grave, lo, per ma caso, io, tu lo dici sei tu per caso, apposta. Lo dici tu. Tu sei andato apposta con Formaggio ma io, quell'altro. Ma è uno dei protagonisti di questa trasmissione, è io frequento tutti, la cena io dei frequento mostri. Tutti, è ma la va benissimo cena che tu lo dica, Adams. Quello può essere, secondo te, va benissimo che tu lo dica, ma non dire cazzate. Mancava solo Lurch, Lurch mancava. A cagare. È meraviglioso, meraviglioso. Ecco, quella mancava. Mancava pure quella, mancava. Perché non ti sei portato tutto il carrozzone, la troia dei parioli, quell'altro, quello col camion, quell'altro imbecille, l'ex grillino palermitano? Perché non ti sei portato il resto del carrozzone in quella cena a infestare tutto il Veneto, vergognoso? Comunque mio amico mi dice, per le scene con ex cospiratori ai danni dello Stato tralasciamo, ma in palestra con Casalino questo è grave. Diciamo la verità, ognuno ha i suoi scheletri negli armadi, volendo. Io per me non erano scheletri perché era una cosa assolutamente, qui c'erano un sacco di persone, figuriamoci. Tu sei andato in palestra con Casalino, frequenti la stessa palestra di Casalino per fare cheek to cheek. Ma per cazzi, ma non era a Padova, in Veneto per cazzi miei. Ma quelli sono cazzi come miei, mai? Che c'entra? Ma io vado sempre in Veneto, sono cazzi miei. Lo sai benissimo che sono cazzi miei. Vorrei che tu infatti lo stai. No, ma io vorrei che tu dicessi. Infatti stai distruggendo quella terra. Infatti hai costretto, da quando vai in Veneto, hai costretto Zai a fare un'ordinanza ad hoc che non ha chiamato ordinanza tanto, Cruciani, posso dirti, solo per rispetto della Confindustria. Posso dirti che 1000 euro per chi, com'è l'ordinanza oggi di Zai, non mi ricordo, 1000 euro per chi non si fa ricoverare, per chi rifiuta il ricovero, una cosa di questo tipo, no, quello no, credo, 1000 euro per chi va in giro, è anche troppo poco. Cioè, la cosa che ha deciso oggi Zaia, che è quello che può fare la regione, 1000 euro di multa, non mi ricordo a chi. Hai costretto Zaia a fare una delibera. No, ad hoc, ma è una cosa ridicola. Che voleva chiamare la delibera, voleva chiamarla col tuo nome. Poi, siccome è una persona per bene, anche seria, no, ha deciso di non distruggere Confindustria e non chiamarla col tuo nome. Ma dare una multa di 1000 euro solamente a chi rifiuta il ricovero, eccetera, eccetera, è anche poco, cioè anche poco. A chi va in giro positivo, non mi ricordo adesso qual è il dettaglio della cosa, è anche pochissimo. Uno che è ricco, 1000 euro se ne sbatte i coglioni, in teoria, mi sembra anche poco. Vorrei due paroline da te sul consigliere di Fratelli d'Italia, anche se Fratelli d'Italia poi dice che non è un loro iscritto, anche se poi è stato eletto con la loro lista. Quello che ha indossato, ma pare una foto vecchia, una divisa nazista. Una divisa nazista, lui dice per Carnevale. Non ho altre domande. Cioè tu dici che basta questo, basta vedere questo qua con una divisa nazista. No, ma non lo so, sarebbe... è un po' strano, ecco, che uno tu si dici, metta non ti una stupisci, divisa... dici, non ti sei stupito di vedere uno... No, diciamo la verità, non ti sei stupito. È un po' strano. Io a Carnevale una volta mi sono vestito gestito da fondamentalista islamico, da Hamas, sì, da leader di Hamas. Però non è la stessa vestito, cosa, non sei militante di nessun però partito, diciamo. Non sono militante, esatto, di nessun partito. È un po' strano, ecco, diciamo che è un po' strano. Allora, ragazzi, il mio idolo di oggi si chiama Platinet, Mauro Coruzzi, il quale dice in una bellissima intervista, per combattere questo ridicolo progetto di legge contro l'omofobia che vorrebbe condannare le opinioni anche estreme al carcere, alla multa, eccetera, eccetera. Se io dico a una persona se è proprio una finocchia persa, cosa c'è che non va? Cioè, qual è il problema? Il linguaggio non convenzionale, dice Platinet, ha ragione lui, basta con queste stronzate. Il linguaggio non convenzionale, se io dico a una se è una frocia persa e lo dico pubblicamente, devo essere multato? Devo essere condannato? Avete rotto i coglioni, tu e tutto il tuo cucuzzaro, avete rotto i coglioni, tu magari anche Casalino. Avete parlato con Casalino di questa roba qua? Avete parlato? Di cosa parlate in palestra con Casalino? Di cosa? Ci siamo visti una volta sola. Dai, adesso una volta sola è diventata, e te l'ho detto io, perché quella è la mia palestra e in orari Alessandro diversi da Vicenza, lui. Fammi sentire per Alessandro caso Vicenza. Ci siamo trovati nello stesso orario, Alessandro, manco sapevo che fosse la sua palestra. Sentiamo Alessandro da Vicenza. Gianni, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Ascolta, Parenzo, intanto fai poco casino che qua in si sente il rimbombo, si sente il rimbombo. Lanfranco dalla provincia di Vicenza, metti a posto il telefono prima, dimmi. Lanfranco. Via. Pronto? Dimmi. Ciao Parenzo, ascolta, aiutami tu un secondo, voilà, perché tuo collega lì di radio, pare che sono settimane. Amico mio, devi spegnere la radio, devi spegnere. La mia radio è spenta, cazzo. Dai, sento un rimbombo, comunque vai, dimmi. C'hai il viva voce, l'auricolare, certo, Alessandro. Certo. Lanfra, io vado avanti, a me non me ne frega un cazzo, io vado avanti per altri ascoltatori, non me ne frega niente se non sento, ragazzi. Gaetano da Milano, vai. Lo vuoi censurare? No, vedi? Non lo voglio censurare, tutt'altro, ma non ciao, sento un cazzo. Cruciani. Oh, finalmente. Ciao, da Vicenza i telefoni non funzionano, evidentemente il virus ha portato via pure i cellulari. Dimmi, dai. Ciao, hai distrutto Cruciani. Pure quello, hai distrutto. Dimmi, Gaetano, dai, è tre. Ciao, Cruciani. Ascolta, con serenità, con pacatezza, ma sei un coglione, vero? Sì, io mi aspettavo di dove cazzo andavi, la sera, donne, qua là, dove cazzo vai? In ma saranno cazzi miei. Coglione, ma saranno cazzi miei. L'unica volta che ma lo conosci? Lo conosci? È un'illusione. Ma va a Mignotta a Milano, c'è soltanto ma io vado dove? Ma che ne sai che non ci sono andato? Ma vado dove mi pare. Non mi devi dire tu, imbecille, a dire dove vado. Io vado dove voglio, coglione. Vado dove voglio, imbecille. Dove vuoi? Però di hai fatto una cazzata. Ma qual è la cazzata? Ma che dici? Ma qual è la cazzata? Rispetto a cosa la cazzata? Rispetto a che uno arriva dalla Serbia, passa per una cena con 38 di febbre, io non lo incrocio e questa sarebbe la cazzata. Ma vai a fare in culo, chiaro? Perché dimmi? Allora, perché uno che va a cena con uno che c'ha 38 lo sanno. Non sono andato a cena con lui, cretino. Ma la gente si sta arrabbiando con te. Perché fino all'altro giorno tu dicevi, ma chi è che va in giro con la febbre? Ecco chi va in giro con la febbre. Infatti è un coglione. Chi va in giro con la febbre è un coglione. Le norme servono proprio per queste persone. Ma chi ha detto che tu dicevi non esistevano, invece esistono. Ma chi ha detto che esiste uno? Uno è stato rincoglionito, uno! La mascherina va messa. La mascherina va messa. Fermi, non capito un cazzo, fermi là. Adempimenti normativi, tracciabilità di cantina, controllo dei costi, vendite. La sola idea di fare tutto senza errori vi ubriaca. Voi concentratevi a produrre ottimo vino. A rendervi l'impresa più semplice c'è Enologia, la soluzione software di sistemi creata per togliervi ogni pensiero. Enologia di sistemi, tutto quello che vi serve senza retrogusti. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. La Zanzara. Vergognatevi di dare. Scusa, ma nessuno è stato mai accusato di consentire a questo pagliaccio televisivo / radiofonico. Ma scusa, questa sei un pagliaccio. Sei un pagliaccio. Infanghi la memoria delle persone. Ti devi solo me ne fotto della tua querela. Ti devi vergognare per le cose che hai detto. Ma perché? Perché Cruciani, se non gli dici, ma perché si deve vergognare? Sei complice di questa immondizia. Non è un'opinione, è immondizia. Non gli puoi consentire questa immondizia. Andate a far culo, basta. Ma sì, ma io voglio tu, me ne vado. Mi chiamate quando ha finito sto stronzo. Davide. signore, e su questa ragione Meruzzi, che ha fatto un'affermazione chiara, inutile girarci intorno, Parenzo. Ha detto una cosa chiara, non la mettere, non la buttare in cacciara. No, ma non la girate, ha detto, fallo sentire tutto. Ma che tutto non è quello, vero. Tutto, come ha non fatto è vero? Un ragionamento lo di una... pure. Ha fatto... hai detto che sei d'accordo. Assolutamente d'accordo, ha fatto allora un ragionamento molto più complesso delle stronzate che state dicendo voi. Ha detto che è una malattia psichica. Non ha detto come questo. No. Ma cazzo, ha argomentato, ma ha fatto un ragionamento molto più complesso, te lo giuro. Tu hai un problema clinico. Tu ce l'hai sicuramente, non so che cazzo sei, se sovranista o qualcos'altro. Sei solo una macchietta televisiva ben pagata. Macchietta televisiva ben pagata. Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Perché non sei pagato? Non sei pagato? Non sei pagato? Perché non sei pagato? Ma tutti sono pagati, che c'è? Sei pagato o no? In Rai ci vado gratis perché è un servizio pubblico. Ma anche se avesse detto quello che voi avete ridotto all'osso in modo così, bastava guardare Meluzzi per capire che cos'è la malattia mentale del sovranismo. Bastava guardare lui. Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Macchietta ben pagata. Mi onoro di non averti mai invitato in una mia trasmissione televisiva. Mi onoro. La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24. Oh, senti, il camion. Non puoi e non devi essere libero di impestarmi. Amico mio, il party con l'untore. Sì, andiamo di Covid. Sì. David, ammettilo. In palestra ti sei solo allenato con Casalino oppure avete anche fatto la doccia insieme? Barisoni gay. Allora credo ragazzi che il signor Morricone su lì dall'alto dei cieli da dove è andato potrebbe anche querelarci per la musica che abbiamo messo, caro Davide, prima. Se io fossi della famiglia lo farei, anzi, certo. Avere utilizzato come sottofondo al tuo litigio quella con il signor Meluzzi. Maestro. Quella del la grande musica maestro, del grande maestro. Esatto. Una roba incredibile, guarda, incredibile. Tu e Meluzzi, incredibile. Come tieni, incredibile. Come li coltivi questi mostri, come in una serra, le piante grasse. Tu hai trasformato questo spazio radiofonico in una sorta di Jurassic Park di Steven Spielberg. A un certo punto questi mostri ti divoreranno, ti verranno contro. Già hai distrutto il Veneto partecipando al party della vergogna l'altra settimana e per questo un governatore è stato costretto a inasprire le pene per colpa non tua per questo. Ora non tu per ti questo. troverai i mostri che hai creato nel corso di questi anni che improvvisamente ti distruggeranno e ti divoreranno. Questa sarà la tua fine, questa sarà ragazzi, la tua fine. Per fatto privato personale, a un cretino che si è messo a scrivere su un giornale che chiamasi Fatto Quotidiano, ma non è colpa del Fatto Quotidiano naturalmente, dico solo questo: non esiste alcun trio. Io non ho mai conosciuto questo imprenditore, questo, ma beh, non è che mi vergogno, cioè, sei mi sei fatto invitare a cena, oh, però. Ah, l'hai già detto, enoteca, aspetta, fammi finire. In un'enoteca preziosissima. Non ho mai conosciuto questo imprenditore. Non so nemmeno come si chiama, l'ho preso oggi. E dunque al massimo è solo un duo, tanto per precisare al signore di qui sopra, al cretino di qui sopra. Le parole che ha usato maestro, nei miei confronti, maestro di turpiloquio, campione dell'Italia del menefrego, strizzatore d'occhio alle peggiori nefandezze razziste, misogine, omofobe, prostituzionali del pubblico che alleva. Manco le commento, perché ognuno la pensa come vuole, per carità, è legittimo pensarla così, anche se poi uno potrebbe anche dire, beh, insomma, tu mi dai dell'omofobo o dell'incitatore all'omofobia, al razzismo, e io ti porto e io ti tolgo tutto, ti tolgo pure le mutande, ma non lo farò. Ma non lo farò perché non mi interessa. Invece non ha capito un cazzo, ripeto per l'ennesima volta. Confindustria, credo, per quello che ne posso sapere, non voglio essere portavoce di nessuno, se ne fotte di questo tuo attacco sconclusionato, come fossimo noi portavoce di qualcosa. Per fortuna qui c'è libertà, il massimo della libertà. Siamo stati anche in conflitto più volte, magari lo siamo anche con chi governa questa azienda, per alcuni toni usati in questa trasmissione, per cui non c'è nessun portavoce, non sono paladino, non siamo paladini di nessuno. Ma questo lo puoi dire anche tu, Davide, che non siamo paladini di nessuno. Dillo, se hai il coraggio, certo. Dillo al signor Lerner, ma se hai il coraggio. Dico, ma certo, ma figurati, fatemi se, dunque non rappresentiamo nessuna linea di Confindustria, no, nessuna linea negazionista, primo perché tu non sei negazionista, io non sono negazionista, ho nei mesi scorsi, negli ultimi settimana, un atteggiamento zangrilliano a favore di quello che dice Zangrillo, ma è un crimine? Non mi pare un crimine, punto e basta. Persone pericolose, ma questo è il tema. Cioè, adesso perché sono andato a una cena con formaggio, sono pericoloso. Dei mostri, dai, dei su. Mostri, a una cena Lanfranco, di mostri. Provincia di Vicenza, ma non lo so, ma io posso andare anche a una cena di giullari, non mi interessa. Non è mostri né giullari. Cioè, che ti devo dire? Magari fosse. Lanfranco, provincia di Vicenza. E rimane sempre il grande interrogativo del perché hai preso il Veneto di Mira. Per Lanfranco. Rimane questo. Lanfranco, provincia di Vicenza. Tutto. Io comunque ti metterò contro i migliori avvocati veneti. Io ti metterò contro Lanfranco. Perché tu stai creando un danno all'economia di quel paese. Dimmi, Lanfranco. È arrivato quest'altro dalla provincia di Vicenza. Lanfranco, avanti. No, io sono precisamente di Gambellaro, dove tu hai cenato, tra l'altro. Sì. E allora, che cazzo vuoi, Lanfranco? Dimmi. All'attacco. Parenzo, ascoltami qua, dammi una mano tu stasera, perché. Certo, signora che hai di fianco, se non erro, sono settimane era il fatto che le mascherine non stavano. No, non ho mai detto questo, non l'ho mai detto, mai detto, mai sostenuto, tant'è che rincoglionito, non l'ho mai detto, mai detto, mai detto, mai detto. L'hai detto. E dopo che cosa mi fa, Parenzo? Senti, questo si deve sentire bene però. Bravo. Alessandro da Vicenza, cambiamo telefono, che non è perché mi dà contro. Bravo, bravo. Ma me la siete messa quella mascherina o no? Ve la Alessandro siete messa la mascherina lì all'aperto in quella festa, sì, dove eravate? No. All'aperto, non come ve sai, la non siete è messa. Non è io ho le foto. Certo non ve la no, siete messa la sì, mascherina. No. Ma comunque non è obbligatorio. Vergognatevi. Alessandro, vergognatevi. Dimmi, non è obbligatorio come c'era sai. C'era una cantina chiusa. Ma vai, c'era culo, sotto. Ma quale chiusa? Che io cazzo ho le dici? Foto, vergognati. Le planimetrie. Ho le planimetrie. Sei un imbecille, Alessandro. Ho tutto in mano e pubblicherò. Mi sentite? Io sento un cazzo per conto di Parenzo. Sento bene io, sento bene stavolta. Perfetto. Allora, un commento sulla festa con l'untore. Sì, ma non c'è nessuna festa, non era, era una scena. Questo è passato. Vai a vederti i numeri del Ministero della Salute sui contagi in Veneto. Bravo. Vai a vederti, bravo. Lì sono 17 persone in tutto il Veneto. Ma attacco, Alessandro, ma questo chi è? È Ciccio lo Zoppo che c'era alla cena. Chi è questo qua? Ma chi è questa? La donna barbuta che era assieme a Gottardo e a Gio Formaggio e a Cruciani alla festa? Chi è questa, quest'altro fenomeno da baraccone? Ma chi sei tu? La donna barbuta, il nano che salta nel cerchio di fuoco, chi sei? Il quarto uomo del trio? Io sono il quarto uomo, sì, sono il quarto uomo. Appunto, sei il quarto uomo, sei del trio. Alessandro ha perfettamente ragione, non era il nano, il nano che frusta il sedere all'asino. A Parenzo non c'è nessuno contagiato, due cazzi di specchi e basta. Bravo Alessandro, ha ragione su una cosa, ha ragione su adesso, contagiati adesso, quello che ha fatto quel signore lì è una cosa grave, perché ma con 38, ma la colpa, certo, non è del Covid diffuso, è di quello che è un coglione, esatto, non è del, esatto, non è del coronavirus, civico, ma è di quello che è un civico. Coglione, punto e basta. È di gente, non è il ritorno. Come te che dice che è tutto finito, di gente io come ho te detto che è tutto, tutto certo, finito, perché i dati mi dicono che tu oggi sono 8 morti in Italia. Che cazzo dici? 8 morti in Italia. Del contagio del Veneto sei. Elena da Milano, vai. Elena, dimmi. Sì, poi dice gli immigrati portano le malattie. Quali immigrati portano le malattie? Cruciani e formaggio portano le malattie, altro che gli immigrati. Fermala, Elena. Mi saluti, per favore, la seconda volta che ti chiamo. Elena, dimmi. E abbiamo già parlato. Adesso, ti volevo dire, mi segnalano che anche il sindaco di Sabaudia chiederà il tampone per Cruciani, mi hanno segnalato. Adesso come tu in ogni posto dove andrai verrai tamponato. Fermala, Elena, aspetta un attimo, che ti sai che abbiamo un sacco di interruzioni live, no? Fermala. Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie e analisi, con zoom e grandangolo, voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano, naturalmente qui su Radio 24. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento La Zanzara. Ciao, sono Stefano e anch'io mi faccio scopare la moglie. I love my radio. Ciao, sono Michele da Genova e ieri sera la ragazza con cui stavo uscendo mi ha detto che 1. Vota Giorgia Meloni, 2. È contraria all'uso di droghe leggere, 3. Non pratica il cosiddetto ditino. Le ho comunicato di trovarsi un'altra persona con cui uscire. I love my radio. Ciao, sono Andrea da Milano e anche io combatto ogni giorno una battaglia per distruggere il tabù del dito nel culo. I love my radio. Ragazzi, quello che si fa scopare la moglie, me lo fate risentire poi più avanti, la corte in company là dietro, me lo vado, fatemi fatemelo risentire bene più tardi, non c'è bisogno adesso. C'era più tardi. Anche lui, c'era anche lui alla cena, quella famosa. Ma perché? C'era non pure lui. Ma perché cos'hai contro quelli che si fanno scopare la moglie, che amano farsi scopare la moglie? Non capisco, cos'hai contro? Non mi far parlare. È gente normale, come te. Magari amici tuoi hai e non lo sai. Magari hai amici tuoi e non lo sai. Ma no, perché no, amici no, così? No, ma perché no, devi dire? Ma perché così. Non lo puoi escludere in partenza? Non ma puoi. No, amici così. Ma no, che no, ne sai? Così. Magari hai amici te che si fanno trombare la moglie davanti, che amano farsi chiavare la moglie davanti e sono persone parlare. Insospettabili. Non fa... Ma di non che cosa? Non farmi parlare. No, ma io non ho amici così. Non ho nani che schiaffeggiano sedere di elefanti. Non ho la donna cannone. Non ho Alberti Gottardi. Io non ho nulla di tutto questo. Infatti una mia amica mi scrive: sicuramente Parenzo ha amici che fanno scambi o gente che si fa chiavare la moglie. Ma è normale no, che sia così credo, c'è credo, una percentuale della popolazione. Io ti come faccio per gli omosessuali dall'avvocato ma, trucco ma come, io ti faccio ma fare come, una ma scusa, ma anche per gli omosessuali dall'avvocato cinese anche per gli omosessuali ti scateno tutti i miei avvocati, ma tutti, scusami, tutti quelli come che ho, nella percentuale Cinetto, degli omosessuali in, una, in un contesto sociale sarà tu conoscerai qualcuno, forse nemmeno no, lo sai no, che si fa scopare no, la moglie di fronte no, che ama no, questo gesto, che ama questa è missione, ama è questa situazione impossibile, e magari non lo sai perché purtroppo è l'ultimo tabù rimasto, è uno degli ultimi, se ci pensi bene ormai ogni tabù è caduto, no? Cioè diciamoci la verità, ogni tabù si è infranto, si è distrutto e ormai non fa più scandalo niente. Se però tu dici a me piace farmi scopare la moglie, cioè a me piace vedere mia moglie che scopa con un altro, beh ti guardano male. Cioè se tu lo dicessi per esempio alla 7 come ti guarderebbero? Cioè ti guarderebbero malissimo, no? Nei meandri della 7, nei corridoi matto. Ti incrocerebbero no, con lo sguardo di quello si fa scopare la moglie, come una volta facevano con i gay, come, esattamente come facevano gay, con i gay una volta. Ma che bisogno c'è di fare no, queste ma cose? Per dire, che no, è l'ultimo c'è? Tabù rimasto. Uno dovrebbe dire a me piace come i gusti, no? Uno dice che gusti hai nella vita, dice ho questo gusto qua eccetera. La stessa cosa si potrebbe dire per questa roba qui. A me dispiace darti un dolore. Io non è uno sport che mi piace. Che cosa ma ti no, devo d'accordo, dire? Non ti piace, ma avrai piace, degli amici che lo praticano, piace. Sicuramente. Non lo sai, ma è l'ultimo tabù rimasto. Noi ci vergogniamo di questa cosa a dirlo. Molti si vergognano a dirlo. Perché effettivamente ormai se tu dici sono omosessuale, giustamente non ti dice più niente nessuno, ormai è superatissimo, anzi, al contrario, no? Se invece tu dici io sono uno che si fa chiavare la moglie, beh, ti guardano male. Chiacchierano, c'è il chiacchiericcio certo, sotto. Ma perché ma certo? Perché? Perché? Dimmelo, perché? Perché sei incredibile, guarda, Io. Cosa io? Io che? Io sono incredibile. Alessandro da Vicenza, sembrava io cosa? Sono incredibile, sembrava io adesso, io sono incredibile. Alessandro da Vicenza, vai. Dai, oh! Alessandro non c'è più, Elena da Milano, è vero, Elena da Milano, vai. No. Hanno lasciato Alessandro da Vicenza. A proposito di questo argomento delle mogli, proprio ci sta pennello. Nella canzone Agumenega, in genovese, De André dice, parla del direttore del porto, c'è tutta la processione la domenica. Sì, vabbè, però non ci fare due cose. No, ascolta, ci azzecca proprio. Per non far vedere che è contento che il molo nuovo al finanziamento si confonde nella confusione e con indignazione grida le mignotte, bagasse, siete ci restate. A questo punto De André dice... E tu che gli sbraiti appresso, io ti sto facendo la citazione, neanche più il naso hai di nuovo, brutto stronzo di un portatore di Cristo, che non sei l'unico che se ne è accorto, che in mezzo a quelle creature che si guadagnano il pane da nude c'è anche tua moglie. Dunque? Questo è in genovese, dunque la domanda era perché, vabbè, tu è più chiaro di così. Sì, assolutamente, dimmi, la domanda qual è? Allora, ti volevo chiedere la domanda te la sto facendo, perché non fai la domanda riguardo alle case di tolleranza e l'apertura alle donne? In che senso? E tu fai la domanda agli uomini se sono d'accordo con l'apertura. Ma veramente l'ho chiesto anche alle donne un sacco di volte. Sì, ma quali donne? Quelle che chiunque, politici che fanno leggi contrarie. Ma col potere che si espongono in TV. E che cazzo vuol dire? Lo faccio a chi mi capita? Che a chi mi capita? I clienti li chiamano impotenti, si permettono di giudicare impotenti clienti, che per me sono dei gran figli invece, perché amano l'avventura. Perché cerchi queste donnette così? Ma chi cerca le donne? Ma che sei rincoglionito? Ma chi ama le donnette ben pensanti? Ma che dici? Io lo chiedo a tutti. Parla alle donne semplici. Ma l'ho chiesto, lo chiedo a tutti, lo chiedo anche a te. Lo posso chiedere anche a uno. Io ti rispondo. Ma che sei la portavoce del corpo delle donne? Mi piacerebbe tanto, non lo so, ma mi piacerebbe. C'è un vizio all'origine in questa transazione, mercificazione, no? Tra il corpo della donna. Aiutami tu, però. Aiutami tu. Molto bene. Ti aiuto molto perché bene. Sono donna. Dimmi. E tu forse vai molto, a me. Non me ne frega niente che sei donna. Quindi mi piaci molto. Morale, andiamo neanche a me. Quello, la plusvalenza è l'anima, queste creature che si guadagnano il pane da nude. La plusvalenza è l'anima, e quindi non si può vendere e comprare. Questa è la posizione di una semplice. Ma che vuoi da me? Qual è il punto? Non ho capito qual è il punto. Molto bene. Non si è capito. Te lo ripeto di nuovo: perché fai questa domanda sempre maschi oppure a donne? Ma che le che scegli tu? Ma lo faccio a tutti. Al potere. Ma ti ripeto: lo fai a donne che si mostrano in TV, donne che hanno. Non le fai le donne normali. Ma che lo faccio anche a te, rincoglionita. Francesco, provincia di Napoli, intanto mi segnalano un argomento che non c'entra assolutamente nulla con quello di cui stiamo parlando, a parte che non stiamo parlando di niente come al solito, David, per cui si può parlare di tutto, che nulla. Il sindaco di Reggio Calabria ha appena firmato un'ordinanza con la quale sospende l'installazione delle antenne 5G in città per tutelare la salute di tutti noi. No, tu ti rendi conto? No. Cioè no, ti giuro, sindaco PD di Reggio Calabria ha firmato un'ordinanza per fermare l'installazione delle antenne 5G per tutelare la salute di tutti i cittadini. Ma c'era anche lui a quella cena in Veneto con te? No, c'era in Veneto, pure lui. Da Reggio Calabria, ti assicuro che non è venuto. Francesco, magari l'avete chiamato, degno sostenitore della vostra compagnia di amici. Luciano, dimmi Luciano, dimmi. No, chi cazzo era? Senti qua che meraviglia. Sì. Francesco, dimmi. Lota. Vabbè, dai, forza. Senti che meraviglia. Ma senti, ma ancora non ti hanno murato in casa? No, per fortuna no, il tampone è negativo, il sierologico è negativo. Senti che meraviglia. Tiè. Morricone, sì. Vabbè, dai, Francesco, dai. Dimmi, Francesco. Ma ascolta, questa storia del tampone, no? Cioè, tu oggi hai fatto tampone e test sierologico, ti hanno dato i risultati oggi. Sabato mattina, oggi. Testa di cazzo, sabato mattina, rincoglionito. Ah, ti hanno dato i risultati in due giorni, una persona normale per avere anche i risultati. Anche prima. Chi ti ha raccomandato? Chi ti tutti, ha raccomandato? Il tuo amico Zangrillo. Tutti. tutti ma mi cosa, hanno ma poi tutti. Fammi capire, fai tanto il difensore dei deboli del popolo, poi partecipi alle feste tra caviale e champagne. Non c'era nessun caviale, nessuno champagne, amici, ti posso assicurare, guarda, ti posso assicurare, cene, ti posso assicurare che non c'era, pesce, non c'era né caviale né champagne. Bravo. Te lo posso dire, ma per dire, per fare un esempio, no, ma non c'era, non era una cena ricca, ti posso assicurare, una cena normalissima. Gli imprenditori del Veneto, piatti, chi c'era? Se non sbaglio, piatti anche di carta. Dove, se non ricordo male, no, forse no. Personalità, diciamo, no, molto, ma era gente normale. Piccolo, era no? Gente, ma sono cazzi miei con chi vado a cena. Poi chiaro? Fai la morale a Parenzo per le cene di alla base, esatto, di pesce. Alessandro, esatto, da Trieste, abbiamo, esatto, capito. Non c'è nulla di nuovo. Culo, sì, non c'è dubbio. Volentieri, Alessandro, dimmi. Ciao, Pepe. Dimmi, volevo dimmi parlare con Parenzo, no? Perché quando lo sento della sua, scusi, invidia, che la gente guadagna e che lui non ha un cazzo, no, e che devi solo caricare il culo la gente, Dio povero, no, per andare in televisione. Fermo, non c'è bestemmia, non c'è nulla, però stava rischiando molto. Non ho capito dove vuoi andare a parare, Alessandro, non ho capito. Al manicomio. Perché ho qua scritto extracomunitari ci portano le malattie di Alessandro da Trieste, che sta continuando a parlare. No, intanto, e su questo, caro Sbagli, si alzi, non no, gli extracomunitari, un imprenditore veneto che peraltro ha nel suo, ho letto nell'articolo, nel suo, sì, giardino la Torre, sì, Eiffel. Che cos'ha nel suo giardino? La Torre Eiffel? Una Torre Eiffel. Cioè ha costruito la Torre Eiffel, sì, nel giardino? Non, sì, ci la Torre, non ho nulla contro nessuno e gli auguro una prontissima guarigione. Non si può far costruire la Torre Eiffel, sì, nel giardino, non l'ho capito. Non si può far costruire la Torre Eiffel. Però, virgola, amico mio, virgola, se io nel mio terrazzo, sì, mi facessi, sì, costruire un modellino dell'Empire State Building, ma è normale, qualcuno quello direbbe che sono fuori di zucca. Dice, perché si è andato a costruire un modellino? Ma roba pazzesca. Ma uno capito può farsi costruire quello che vuole, ma l'idea di farsi costruire in miniatura, immagino, giardino, no, ma credo una Torre Eiffel, non so in miniatura, quanto è alta la Torre Eiffel, non lo so, sarà vai a verificarlo, verifica. Questi sono i tuoi, no, amici, comunque sinceramente io non ci voglio dire andare niente a casa sua. Intanto gli auguro andare una prontissima guarigione immediata, perché ovviamente vabbè. Ciao. La Zanzara. Io, Carmela, prostituta di Parioli, auguro a Parenzo ogni successo su canale La 7, la tua trasmissione in onda e non in culo. Mamma mia, David. Da quando lei sarà denunciata al Tribunale Penale Internazionale. Allora, in collegamento con noi la signora Annalisa Chirico, che saluto. Ciao Annalisa, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao a voi. Molto bene. Allora, perché oggi è uscita un'intervista della signora Silvia Romano, che si vuole far chiamare Aisha, e noi rispettiamo per carità questa sua volontà, chi se ne frega, anche se è un po' bizzarro. Devo dire, una che si chiama Silvia Romano e si vuole far chiamare Aisha. Vabbè, d'accordo. Ma perché mai? Ma perché uno si dovrebbe far chiamare Aisha? Si chiami Silvia Romano, scusa, si vuole far chiamare Aisha. Ci sono persone che scelgono di cambiare sesso e lei non può cambiare religione. Ma non ho sì, capito, per scusa, carità, va benissimo. No, pare che prima fosse di nessuna religione, diciamo, non credeva a nulla. Così ha detto in un'intervista pubblicata con Davide Piccardo, direttore del giornale La Luce. Voglio precisare che questo Davide Piccardo, che noi conosciamo bene, è a favore della poligamia. È un signore a favore della poligamia. Quello anche tu, però. Non legalizzata. Del poliamore, sei a favore anche tu. Non della poligamia. Quindi, quindi anche tu sei. No, perché tu non ti sposi con nessuno, ma vai a letto con 50 donne alle volte contemporaneamente. Quindi adesso non è che puoi fare la morale. Ma il poliamore. Ma che c'è? Il poliamore è una cosa. Non puoi alzare il ditino tu. Comunque, andiamo avanti. Questa signora ha detto anche che il velo è simbolo di libertà. Poi ha raccontato perché è diventata islamica. Ora, come si fa a dire, cara Annalisa, che il velo è simbolo di libertà? Ora, non è che si può. Il velo è simbolo di libertà, una boiata pazzesca, lasciamolo dire a Silvia Romano, perché capiamo che vive una fase complicata, vuole farsi chiamare Aisha. Io non credo che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana per lo Stato italiano, a meno che lei non faccia le procedure che bisogna fare. Lei si chiama Silvia Romano, quindi Silvia, che io continuo a chiamare Silvia, giusto. Può dire quello che vuole, però la verità è che il velo, per chiunque conosca, è un suo diritto, Annalisa, farsi chiamare Aisha. Ho capito, noi abbiamo a chi fa male di dire che è una boiata pazzesca dire che il velo è simbolo. E perché a chi fa male? Aspetta, ma io dico, una si mette la minigonna, l'altra si mette il velo. Allora, Una allora, si mette le minigonne, l'altra allora, il velo. La poligamia sarebbe una cosa bellissima, lo dico anche da donna, ma purtroppo nella società islamica, come voi sapete, vale solo per i maschi, quindi io non mi convincerete mai che è una società giusta, libera giusto. E dà pari opportunità a quella beh, in cui l'uomo considera il corpo della donna sua proprietà, in sì. cui le donne subiscono la lapidazione per il solo fatto che pretendono di amare l'uomo che loro decidono di amare, una società dove l'adulterio è reato la nostra ma certo, ma ragazzi, ma il velo è simbolo di quella roba lì, non diciamo la cazzate, dai. È molto fortunata perché vive in Italia, quindi può dire anche le cose più strambe, noi le riconosciamo la libertà di farsi, ma figuriamoci, chiamare, di farsi chiamare pianta, foglia, albero, si faccia chiamare come vuole, siamo un paese libero. Però dobbiamo ricordarci che viviamo in un paese libero e che tante donne musulmane purtroppo vorrebbero avere la libertà mia di Giulia Romano di cambiare abbigliamento. Anche nome, perché se uno in dove era lei o in un altro paese islamico vuole farsi cambiare nome e invece di Aisha si vuole fare chiamare Silvia, col cazzo che te lo fanno fare. Ma col noi siamo l'Occidente, infatti. Però, ma io non riuscirò ma mai a convincermi che noi da donne fortuna. Occidentali, noi da donne occidentali dobbiamo avere invidia o stimare cosa? Un sistema in cui la donna è oggetto dell'uomo, in cui la donna deve avere il guardiano maschile, addirittura in Arabia Saudita. Ma non mi pare che lei abbia detto questo. Per viaggiare. No, però. Ma non mi pare che lei abbia come modello l'Arabia Saudita. Lei si è convertita, appunto. Accettiamola, la bellezza dell'Occidente. E che accettiamo lei, accettiamo le bellissime donne con le minigonne. Cosa che io preferisco. La libertà di scegliere ogni giorno che ha di indossare, ma non appunto. Mi piace, non accetto da donna occidentale che qualcuno dica che il velo è simbolo di libertà, perché è uno schiaffo in faccia alle donne che oggi se parliamo. Vabbè, ho capito, io posso anche dire il sesso degli angeli, ognuno può dire quello che vuole, ok, non è simbolo di lei, lo è. Ma io che vuol dire? Lei lo è, perché lei è una donna. Aspettate un attimo, aspetta un attimo, scusami. Ci sono donne nei paesi arabi che non si sentono affatto libere di togliere il velo. Scusa, per cui non esatto, che il romano dica che il velo è simbolo di libertà. Esatto, c'è un'altra cosa. Dove Parenzo prima ha paragonato il velo alla minigonna. Alla la minigonna, ma è una cazzata tremenda, è una puttanata. Ma come si fa a dire una cosa del genere? Se è messa in un contesto libero è la stessa cosa. Ma è una puttanata inaudita, non dire cazzate. Quello è simbolo. Un contesto libero, libero. Allora è un paragone di quei paradossi che piacciono a David e diciamo lo contraddistinguono, però in realtà la minigonna no, è stata è un paradosso radicale perché un grande simbolo di liberazione esatto, femminile, certo, non perché noi abbiamo certo, l'obbligo di mettere la certo. minigonna, io non la metto mai, ma perché siamo liberi di scegliere. Bene, nelle società islamiche, David, come tu ben sai, non si è liberi sì. di mettere no, la minigonna. Ma soprattutto qui non parliamo aspetta, di società c'è un passaggio, islamica, ragazzi, c'è un passaggio, stai zitto un attimo. No, ma stai zitto un attimo. Stiamo parlando dell'Italia, cioè, lei ha scelto il libro. Io ho fatto c'entra? Un'altra cosa, non perculatemi, io ho detto che lei ha scelto di mettersi il velo. Tant'è che nelle società arabe noi turisti occidentali quando andiamo lì certo. non possiamo mettere la minigonna esatto. ma dobbiamo coprirci. Allora posso dire un c'è un passaggio, state zitti tutti e due, state zitti, dovete stare zitti tutti e due. Voglio leggere un passaggio per me di Silvia Aisha Romano, come diavolo si chiama. Per me il mio velo è un simbolo di libertà perché sento dentro che Dio mi chiede di indossare il velo per elevare la mia dignità e il mio onore, perché coprendo il mio corpo so che una persona potrà vedere la mia anima. Per me la libertà è non venire mercificata, non venire considerato un oggetto sessuale. Dunque, lascia intendere che chi scopre qualcosa che è il vero la vera grande rivoluzione stata della società contemporanea occidentale, chi scopre qualcosa viene immediatamente mercificata. Ma di tu cosa sei, stiamo? Noi donne abbiamo le nostre no, nonne, ma come no? Le nostre nonne hanno lottato affinché ciascuna di noi non venisse giudicata dal modo in cui è vestita. Io non mi rifiuto. Non state le nostre sbagliando. Nonne hanno lottato ma affinché no? Siamo... noi non veniamo giudicate dal modo in ma cui ci vestiamo. No, ma soprattutto anche se mostriamo nessuno sta facendo pudore. L'elogio dei guarda, c'è un errore fondamentale. Io non c'è non nessun errore. Tu hai paragonato la minigonna al velo, arabi. La minigonna al velo, no, ti devi vergognare per ma questo. Ma non hai capito, io non farei mai l'elogio di una dittatura araba, teocratica. Ma che c'entra quello? Ma un altro discorso, figuriamoci. Hai bestemmiato, hai paragonato una minigonna al velo, hai bestemmiato. Che se una ragazza in occidente sceglie di mettersi il velo, ma nessuno glielo impedisce. È come quella che sceglie di mettersi la minigonna. Ma non è vero, se sono due ma non è così. Scelte maturate in libertà, se sono maturate in libertà, vanno rispettate, cari miei due liberali. Aspetta, fammi sentire. Scusate, io devo ancora capire qual è la scelta maturata in libertà quando questa donna, questa ragazza è stata per mesi prigioniera di un gruppo di questo rapitori. Vedremo, io devo ancora capire qual è la scelta di libertà. Per favore, è una cosa molto seria questa che stiamo nella sua testa. Tante donne ci ascoltano e stanno anche in una gabbia familiare, donne musulmane che vivono in Italia, costrette. Allora, voglio chiedere una cosa ad Annalisa. Io non parlo mai di alcune persone che ho conosciuto nel passato, eccetera, eccetera. Però oggi ho visto circolare sull'internet il video di un ragazzo, non faccio né nomi né cognomi, ma tutti quanti abbiamo capito noi, di un ragazzo di anni 15 che dice delle cose a Sabino. Ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita. Cioè, va là e dire omofobo, razzista, figuriamoci. Poi tutti si scandalizzano perché hanno preso le generalità, che non mi pare mettere in galera qualcuno. E lo stesso ragazzo, più madre, eccetera, eccetera, scandalizzarsi per questo, per il fatto che venissero prese le generalità. A un quindicenne non gli prendi, a parte uno non sa se uno ha 15 anni o no, a parte che prendere i dati non vuol dire un cazzo. Prendere i dati e prendere i dati, non l'hai fucilato. Siamo ridicoli. Parliamo di un minore, quindi facciamo anche bene a non citare. No, ma perché ridai? Io non cito nessuno, non me ne frega niente, anche se poi. No, ma dico solo una cosa: a me mi rompi i coglioni solo non citando nessuno, il vittimismo. Cioè, tu vai là, rompi giustamente i coglioni perché. Perché vai là da Sabina, digli omofobo, razzista, e poi fai, e poi c'è tutto un vittimismo. Oddio, hanno preso le generalità, mi hanno messo sulla gogna. Ma quale messo sulla gogna di che? Messo sulla gogna di cosa? Si sia fatto impressionare perché è abituato da giovani, vecchi, donne, uomini, che quando fa queste cose pubbliche. Ma sì, ma è stato anche normale, ha risposto. Adesso non mi ricordo. Ma quella è una procedura normale, o è normale che le forze di polizia. Ma è normale, ma quello è il capo dell'opposizione. Ma cosa? Ma è lo scandalo? Ma che è normale. Ma cosa? Ma chi se ne frega? Ha preso generalità, non l'hanno messo in galera. Ma perché deve delle generalità? Ma perché deve delle generalità? Non politicizziamo i figli, perché da ultimamente vedo troppi figli. Ma nessuno ha politicizzato i figli. Ma nessuno ha politicizzato nessun figlio. No. Quello è un ragazzo che in autonomia si è fatto un'idea e ha detto due cose a Salvini. La polizia gli ha preso le generalità, che è un pericoloso terrorista. E che ha fatto? L'hanno arrestato. E che è la limitazione della libertà. Ci mancherebbe altro. Fermi tutti. È un'intimidazione. Prendere le generalità. Intimidazione, non rompere i coglioni con queste strozzate. Sì. Ciao Annalisa. Assolutamente sì. Fermi tutti, fermi tutti. Intimidazione, ma roba da pazzi. La Zanzara. Via! Da questo canale. Ciao, sono Stefano e anch'io mi faccio scopare la moglie. I love my radio. Mamma mia, Cruciani, ho fatto un sogno bellissimo. Qual è? Un porno con Parenzo e la Saulina. Beh. Mamma mia, amico mio, siamo al top. Sono pronte per essere munte. Vabbè. Sono pronte per essere munte. Credo. Stanno qua. Sì. Credo rimarrà solo un sogno, solo un sogno quello dell'ascoltatore di fare, di vedere un porno con Parenzo e la Saulino. Non lo sporcaccione. Ma anche per volontà di tutte e due, credo. Non credo che lei voglia fare un porno con te. Non preoccupatevi, voglio rassicurarvi. E tu vuoi rassicurare che tra le tante cose che tu non farai mai, si può escludere un film porno. Questo però lo posso escludere pure io, devo dire la verità. Credo che tra fare un film porno e chiamare tuo figlio, un tuo futuro figlio, che non ci sarà, Benito, credo che sia più vicina la possibilità che tu possa chiamarlo Benito. Posso dire? Sono entrambe delle ipotesi idiote. Posso dire che tra le due, se uno dovesse scegliere, quella è quella, diciamo, proprio che si può realizzare in casi estremi, il figlio Benito. Cioè, alla fine. Ma non è un'ipotesi di scuola. Quindi no, perché tra i due, però, uno che dice: cioè, film porno mi sembra molto difficile che tu ti metti a fare un film porno. Perché. Molto. Il figlio molto, Benito, molto. Al limite, se impazzisci, che ne so, stai con un'altra donna. Voglio rassicurarti. Ti metteresti mai con una che è iscritta a Fratelli d'Italia? Cioè tu ti metteresti mai con una persona iscritta? Ma no. io non mi metto più con nessuno. Ho già fatto quel che dovevo fare. Tu... sto con Natalia e basta. Più volte l'hai detto, ti metteresti mai con una iscritta a Fratelli d'Italia? Con una persona iscritta? Dimmi la verità. Ma trovo l'ipotesi. Lo trovo molto, molto difficile. Perché un'ipotesi fantascientifica anche questa. Sì, non c'è niente di male. Non mi pare la cosa. No, ma fate. Penso che anche lei non vorrebbe, non credo, insomma, che sia un'ipotesi. Sono persone aperte che non gliene frega nulla. Si innamorano di una persona. Anch'io sono aperto, sono per le frontiere aperte, ad esempio, esatto, certo, bravo. Vabbè, bravo, Federico, esatto, da Udine, vai, esatto. Federico da Udine. Pronto? Dimmi, Federico, dimmi. Ehi, ciao, ciao. Dimmi tutto. Lui non chiamerebbe mai suo figlio Benito, però io ho regalato a mio figlio una coppia di canarini e li ho chiamati Lucia sì? e Donato. Ah, Lucia e Donato, vabbè, ma come mai? Come Donato da Varese? No, ma io... insomma, avevo prima due pappagalli, Esther e Richard, insomma, omaggio alla trasmissione. Ah, tu cioè, hai chiamato una coppia di pappagalli Esther e Richard, se non ho capito male? Sì, altro che. Altro che. E invece hai chiamato... un ciccione che si chiama Alberto. Cioè, hai chiamato due canarini. Bene. Cioè, non so se mi stai pigliando per il culo. Comunque, hai preso due canarini, immagino... No, ti sto pigliando per il culo. No, cioè, no, tu no, hai no, chiamato no. due canarini... Lucia e Donato, giusto? In onore di Lucia da Pordenone e Donato da Varese. Insomma, è del territorio Lucia, è una cosa nostrana. Ah già, perché tu chiami da Udine. Scusa, Parenzo, secondo te è normale questo ascoltatore? No, questo ascoltatore non è normale per due motivi. Il primo perché telefona alla Zanzara anziché leggersi un libro, andare a teatro o passare una bella serata con la moglie ascoltando musica classica o guardando in onda. Il secondo motivo per il quale reputo questa persona, con tutto il rispetto per le autorità politiche, civili e militari, un coglione, è perché telefona a questa trasmissione. Perché io penso che chi chiama sia un cretino, sostanzialmente, ma non chi ascolta, ci tengo sempre a distinguere i miei piani. Se uno vuole chiamare i canarini Lucia e Donati in onore di due protagonisti di questa emissione radiofonica, qual è il problema? Non ho capito, cioè non c'è niente di male. No, è semplicemente un disturbato, ma va benissimo. Scusami. Che avrei potuto chiamarlo David. Esatto, avresti dovuto un altro, ma sì, non mi sarei offeso, anzi, grande onore. Però scusami un attimo, Federico, ma avevi altri canarini prima? Sì, avevo due cocoriti, Ecco, visto che muoiono, lo ringrazio per non avergli attribuito il mio nome. Ciao Federico, ne compro altri e li chiamo Davide a sto punto. Ciao Fede, grazie. Allora, ragazzi, abbiamo qui con noi però Susanna, nostra amica prostituta della Salaria, perché ci sono delle grandi novità da qualche giorno. Io lo sapevo, però... non volevo rompere i coglioni perché la situazione è molto drammatica. Susanna, ci sei? Sì, ciao Giuseppe. Ciao Susanna, David. Come stai? Come stai? Buonasera, Susanna? Cara, buonasera. Ciao David. Dove sei innanzitutto? Cammino sempre qui intorno al mio quartiere, perché ormai faccio questa vita qui. Cioè, non che è successo? Scusa, raccontalo, io lo so, ma raccontalo agli ascoltatori. Allora, io... mamma. Martedì 24 ho avuto l'ennesimo speronamento. Ancora? Sì. E questa volta sono caduta dentro la spalla sinistra, mi è uscita fuori. Mamma mia. Oh sì. Mamma mia. E ho sentito un dolore mai nella vita così forte. Sì. Ho chiamato l'ambulanza, non ti dico che dolore, finché siamo arrivati al Gemelli. Mi hanno dovuto fare un sacco di morfina. E poi ma solo la spalla? Solo la spalla oppure ti sei rotta qualcos'altro? La spalla, il braccio e tre costole. Sì, okay? Ma cerchiamo di fare ordine. Io voglio capire se questo speronamento, secondo te, ancora una volta è stato uno speronamento voluto da qualcuno per buttarti via dalla Salaria oppure no? Senti, guarda, io non è possibile, io sono 10 anni che vado lì con la bicicletta. Stanno succedendo tutti ora. Quindi io lo collego al fatto che qualcuno non mi vuole più lì. Certo. Il racket ti ha fatto fuori. Molto successo fra le Iene, fra voi. Sì. Io ho avuto molto successo, troppi clienti. E quindi basta.

perché ha detto che scegliere di fare questa vita ha delle conseguenze devastanti. Ma quello ma può avere delle conseguenze, non c'è dubbio. Perché questa vita, Giuseppe, ti fa felice, cazzi, sborra soldi, bello, alberghi, ah. Però poi... Ho capito, poi. Ma sai quanta gente dice però poi, cioè io c'ho i soldi... Ti toglie tutto! Tu parla con altre puttane, ti toglie tutto questa vita! Certo. Ma ragazzi, io non lo metto in dubbio che ti possa togliere... Io sai cosa darei? Ecco, sì. Cosa? Se avevi un compagno, sta un po' tranquilla, vive nel mare certo. Tranquilla... Una persona che ti vuole bene, una persona che ti aiuta, che ti vuole bene per crescere i figli, certo, cose normali, la riscossa delle cose normali, è la riscossa del paese normale, questo è. Una persona che mi vuole bene, che ci faccio l'amore, che mi facciamo una passeggiata mano nella mano. Davanti al mare, ste cose io voglio adesso, a mangiare capito? Un gelato, guarda, a guardare una tra... certo. Tuo salario a gelamme che arriva uno. Io ripeto ancora una volta, ti abbraccio, qualsiasi scelta va bene, se non ci fossero stati gli incidenti, che sono una parte fondamentale, c'è la gente che ha tentato di farti del male e ti ha fatto del male perché adesso sei tutta rotta con le ossa, mi hai detto tutta il bacino, rotta. Eccetera. Io devo andare a Gemelli mercoledì, non so neanche se mi devono operare, capito? Mi sono rotta i coglioni di farmi ammazzare da questi maledetti, capito? Va bene. Che tanto lo so che sono loro. Ciao amica mia, ti abbraccio, spero di vederti presto, ciao. Anch'io, arrivederci. Parenzo, cerca di mantenere la promessa che hai fatto, trovare un lavoro. Sì, io proverò degno, ad aiutarla, certo. Io vorrei certo. Solo trovare un po' di pace. Ciao tesoro, ciao. Certo. Voglio bene. Ciao. Di ai tuoi figli di non essere troppo severi con te, di non essere troppo severi con la mamma, perché no, ma loro mi vogliono bene, loro soffrono tantissimo. Ma lo so, è normale tantissimo. Che soffrano, però i soldi da dove sono venuti? Da quale professione sono venuti? Da quale attività sono venuti i soldi che li hanno fatti studiare? Però sapessi adesso quanto lo capiscono. Va bene. Quanto mi sono costati quei soldi, quanto lo capiscono adesso? Ciao tesoro, ciao. Che sono più grandi. Ciao amore, ciao. Ciao, io voglio bene. The sweeter the touch, yeah. The colder her hand. Another thing. Allora, vi faccio sentire, caro David, alla fine qualcuno dà pure ragione a te sulla prostituzione, vedi questa trasmissione? Succede certo. Anche questo in questa emissione. Sta cambiando tutto, in fase di chiusura di trasmissione. Sta cambiando, cioè chiudono questi 10 anni, chiude definitivamente la trasmissione e tutte le posizioni tornano sulle mie. Cioè, vedi, le prostitute si redimono, gli idioti diminuiscono, ne abbiamo parlato a lungo, sì. I diffusori del virus come te verranno incarcerati, ne abbiamo parlato già in apertura. Io di trasmissione, verrai incarcerato, tu e i tuoi amici verrete incarcerati. Domenico da Cuneo, vai. Domenico da Cuneo, vai. Lo dico io. Grugiani, dimmi Domenico, dimmi. Alla fine, visto che toc sputa tanti in aria, alla fine poi ti è tornato. Ma che del cosa? Virus, che io ragazzi, io non ho mai negato nulla. Io non sono ancora una volta. Durante questa trasmissione l'abbiamo. Ma che fai? Quello batte come. Rederazionem! Ancora. È tutta la sera che batti sto cazzo di cosa che si sente pure strano. Dimmi, Domenico, che vuoi? Ho visto esatto. ho letto le tue dichiarazioni. Comunque no, sono uscito prima che arrivasse. Comunque, quindi alla fine un po' brucia pure a te, no? Cosa brucia? Ma non hai capito ancora. No, dico, l'ho già detto, ma che cosa vuoi da me? Ma che cosa volete da me? Cosa volete da me? Ho fatto qualcosa di illecito? No. Ho fatto qualcosa di irregolare? Risposta no. Ma di che parliamo? Allora, è chiaro che se tu ti metti al centro di uno spettacolo pirotecnico. Ma non c'era nessuno spettacolo pirotecnico, rincoglionito. Non sei mai andato a una cena con più di 30-40 persone in questi giorni, alla fine di giugno? No. E non sei andato, ma non è che ho messo. Non è che era una cosa irregolare che non si poteva fare. Di che parli? Di cosa parliamo? No, ma la questione è che parliamo del fatto che tu hai una certa comunque qua responsabilità. Ma quale che cazzo dici? Non ho fatto niente. Non ho fatto. E allora che fai? Mi devo rinchiudere in casa? Che devo fare? Allora, secondo te sarebbe una buona idea quella di andare a una festa con un botto di persone insieme a Gio Formaggio? Ma qualche, lascia Gio perdere, Formaggio. Io posso andare a una cena con chiunque. Sta cambiando il paese, sta cambiando. Questo non capisci. Hai ragione, Davide, sta cambiando. Emma da Roma, dai Emma, dimmi. Senti Cruciani. Dimmi. Da quando il mio ragazzo ascolta la Zanzara, sì. Si è fissato con i miei piedi. Sì. Me li vuole sempre leccare. Giusto, bravo, e adorare. Bravo. Ma è tu che piedi componente... hai? Che piedi hai? normali, un 39. Ma 39 è un po' grandini, però va bene, cioè 39, no. 39 va bene, per carità, bisogna vedere come sono fatti. Adesso per radio naturalmente non si può fare. Se hai un bell'arco, se sono proporzionati, sì. Se non ci sono cipolle pronunciate, cose di questo tipo. Sì, poi lui li vuole sempre con lo smalto. Bah, è una componente indispensabile. Io non sono d'accordo su questa cosa qua. Non sono d'accordo. Vabbè, non è colpa mia. Giusto, certo. Cioè, tu dici da quando mi ascolta vuole sempre questa roba qua. Sì, cioè, fissato con i piedi. Ascolta, ma dovresti essere contenta. Sei scontenta? Beh, sì, perché se io me li lavo prima del rapporto, lui si arrabbia. Ma fa benissimo, ma se sono gusti, puoi anche rifiutarti. Ma il tuo ragazzo dov'è? Accanto che a te? Branco di maiali. Ma passamelo un attimo. Come si chiama? Scusa, come si chiama? Si chiama Flavio. Ok, Flavio, dai, passamelo. Flavio, eccoci qua, Flavio da Roma, eccoci. No, Flavio, la cosa fondamentale è questa, scusa. Cioè, al di là del fatto che tu sei fissato adesso con i piedi, dopo aver ascoltato per anni, immagino, questa trasmissione, ma i piedi sporchi, questo mi interessa molto. Cioè, più sporchi sono, meglio è, oppure c'è diciamo un limite? Sì, c'è un limite. Io mi lamento spesso perché lei si lava subito prima del nostro rapporto, no, e quindi sa di sapone. Sbagliato. I piedi non possono sapere di sapone. Bravo, amico, ti vorrei abbracciare. Ti vorrei abbracciare, ma sei un mito assoluto. Dimmi. Fare un appello nei confronti anche di David. Mi dispiace per David, che seguo e stimo molto, ma non mi definirei un miserabile come penso lui mi definirà. Perché? Ma mica vai a puttane. Cioè... Io studio economia alla Lewis, mi invitano a conferenze, scrivo, amo la filosofia, leggo anche lo Hegel, sì. Però adesso sto leggendo Gandhi e mi piacciono i piedi, mi piace baciarli e parlarne. E più sporchi sono, meglio è. Ragazzi, ma è così, ma io sono piedi, ma uno può essere, può dare lezioni di economia come fa Flavio, oppure può dare, leggere Hegel come fa Fusaro, oppure altre cose, e poi nello stesso tempo amare piedi un po' sporchi della fidanzata che sbaglia a lavarseli, perché è facile ma in questo caso accontentare un ragazzo, accontentare il proprio partner è semplice, facile, cioè non lavarsi i piedi, che ti frega se quello è contento così, lascialo fare. Ripassami un attimo velocemente Emma, scusa, ripassami velocemente. Ti dico solo una cosa, lei non è stata precisa, ha detto leccarli, in realtà io preferisco baciarli o odorarli, perché leccarli si bagnano, quindi perdono un po', va bene, sì, grazie, sì. Ciao. Emma, sì, scusami, posso dirti una cosa? E poi chiudiamo. Accontentalo, ti prego, non ti chiede tanto. Cioè, non è che per forza devi passare per il sapone prima di un rapporto, prima di andare a letto. Ma in estate quando si sono in lascia, sandali, accontentalo. E poi non basta, no, che ti frega, una lavata in più, una lavata in meno, fermi, ciao ragazzi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Però ragazzi, questo che dice fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Amico mio! Parla di troie. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Amico mio! Mi scopo Giusy Ferreri. Cosa? Quando? Ciao Zanzara, domani pomeriggio sarò a Catanzaro e vi potrò aggiornare sulla bellezza o sulla bruttezza di questa città. Elena. Allora Giuseppe, stazione Santa Maria Novella, Firenze, passa una ragazza bruttina, poi vedo che c'ha l'infradito e inizio a guardare lo smalto bello, quello color prugna, luccicoso, mi avvicino e guardo che c'ha dei piedi bellissimi, se non che si allontana di così, di colpo se ne va, io la inseguo come un segugio, piedi bellissimi, lei un cesso, ma i piedi Giuseppe, chissà perché il binomio perfetto non c'è mai, però i piedi bellissimi, mamma mia Giuseppe. Devo dire che questo ascoltatore però si sbaglia, perché ogni tanto invece l'incrocio piedi bellissimi, donna bellissima, a parte che sul concetto di donna bellissima si può ragionare naturalmente, perché qualcuno magari può pensare che che la donna bellissima sia un certo tipo, altri la pensano diversamente. Comunque il binomio esiste, cioè non è vero che il piede bello si accompagna alla donna, diciamo, magari che non è il prototipo della bellezza. Però a proposito di Catanzaro, perché prima l'ascoltatrice diceva che sarebbe andata a Catanzaro e poi ci avrebbe riferito, un ascoltatore mi segnala questa perla grandiosa. Credo in uno dei programmi preserali di Carlo Conti, a un certo punto un ascoltatore vuole precisare, un partecipante alla trasmissione vuole precisare che lui non è di Catanzaro, perché Carlo Conti lo presenta come tizio da Catanzaro, ma di Catanzaro Lido. Di Catanzaro Lido, vedete che poi alla fine la differenza c'è? Giuseppe! Ciao Carlo, buonasera a Giuseppe tutti. Giuseppe Monea. Esatto. 19enne di Catanzaro. Catanzaro Lido, perché siamo Catanzaro Lido perché mia mamma ci tiene. Allora c'è, diciamo, differenza tra Catanzaro Lido e Catanzaro. Perché sono due mondi completamente diversi, te l'assicuro, Carlo. Noi mare, spiaggia, cordiali, gentili, loro invece Catanzaro, capisci bene, non è Roma, Milano. Però fanno tutti i fighetti, sai, noi in città abbiamo i comfort. Ma dove vieni, dai, ricordati che sei a Catanzaro. Hai capito che cosa Chiara, in che modo Chiara ci ha spiegato Catanzaro e Catanzaro Lido. Esatto. Perfetto. Cioè, persino quelli di Catanzaro Lido sostengono che non ci si può vantare di essere di Catanzaro città. Ma incredibile. Senti, David, io direi di fare una chiamata a quel tizio che si è vestito da nazista, anche se la foto sembra di qualche anno fa. Consigliere comunale di Fratelli d'Italia, forse sì, forse no, non è la canzone di Pupo, ma non c'è chiarezza su questo, che si chiama Vaccarin, una cosa di questo tipo. Vai, chiamiamo. Gabrio? Sì? Gabrio, sono Cruciani, come andiamo? Ah, buonasera, sono sul posto di lavoro adesso, non posso stare al telefono. Lo so che non puoi stare al telefono, ma scusa, non ho capito, quelle foto di quando sono? Quelle lì sono di carnevale di 10 anni fa. Qualcuno dice, ho letto da qualche parte, carnevale, che in realtà non è vero, che è tre anni del 2018, una cosa del genere. No, assolutamente no. Ho capito, ma chi è che l'ha messa in giro per farti un torto? Chi ha fatto sta cosa? Sì, non tanto a me, era per colpire i vertici regionali e provinciali del partito. Vabbè, è una roba vostra, d'accordo, una resa di conti. Ma perché uno si mette con la divisa nazista? Spiegami. In ogni caso, perché se la mette? Quella lì è un discorso di carnevale, è stata una goliardata. Che se avessi saputo così, no, è chiaro che non sì, ma non è che uno, ma non è che uno a carnevale, amico mio Gabrio, e non è che si mette la divisa dell'SS. Poi c'è pure un'altra divisa che ti metti, o un'altra foto con la divisa di Himmler, non so di chi. Cioè, ma per l'amor di Dio. Sembra che ci sia un'altra foto. Sembra, vuol dire che non è, e le garantisco io che non è. Non è, una sola, una sola foto, d'accordo. Benissimo. Sono due foto che girano. Due foto. No, beh, no, più. Ma io quello ho detto, due foto che ci sono. Però ammetterà, scusi, sono Parenzo, ammetterà, amico caro, che è strano mettersi con quella divisa lì. È un po' strano, ammetterà, no? Oh, sarà stato strano, ma quella volta lì chi vuole che vada a pensare? Perché uno si mette una divisa nazista? Non è che uno per carnevale si mette la divisa nazista, deve essere un po' simpatizzante almeno del fascismo, non dico del nazismo, almeno del fascismo sì, o no? Guardi, lasciamo perdere, buona serata. Beh, ma scusi, lasciamo perdere che? Come lasciamo perdere? Ma lasciamo perdere un cazzo, cosa si lascia perdere? Uno si traveste con la divisa da nazista anche solo per carnevale, vabbè, sbatte giù il telefono. Tipi da Zanzara, vai con Mauro da Udine, vecchia conoscenza, qualche mese fa. Tipi da Zanzara. Mauro da Udine, vai Mauro. Io ho telefonato solo per sottolineare la veemenza, la violenza di Parenzo nei confronti di quell'avvocato anziano che peraltro si era permesso di fare una ritrattazione storica che doveva finire. Ma quella lì, è roba vecchia, è roba vecchia, ma quello là si professa. L'avvocato non dovrebbe neanche avere il diritto di parola, se posso permettermi, per le cose che ha detto. Ma quello si professava nazista, si professava. Ma no, non è vero. Ma come no? Era simpatizzante. Quello non ha neanche diritto di parola per quanto mi riguarda. Non ha nessun rilievo storico e se ti trovo per strada ti tiro una sberla a te, sai? dimmelo no, in faccia, guarda, se ti trovo, guarda, io ti giuro, ti trovo per strada, ti tiro una sberla per quello che hai detto. Allora, ma te la tiro. Una cosa, perché in questo caso la violenza è giustificata. Vieni, vieni, vieni. Io ti tiro una sberla, se lo ripeti ti tiro una sberla. Posso dirti? Io non sono, io non sono una persona violenta, ma ti assicuro che ti tiro una sberla. Tu mi dici questo? Ti tiro una sberla perché sei un cane, sei un maledetto. Sei un maledetto, tu e tua madre che ti ha messo al mondo. Ma perché siete arrivati fino a qua? Due maledetti. Ma non ha detto perché niente, se uno giustifica il nazismo è un maledetto, e gli tiro una sberla, pezzo di merda. No, lui è la signora che l'ha messo al mondo. Allora. Che hai detto prima? Hai detto che è sbagliato è sbagliato attaccare quello là. Ragazzi, ma quello su questa roba quello qua, ha detto, scherzo, quello ha detto che Hitler era una persona che in fin dei conti aveva fatto delle cose buone. Guarda, Parenzo, ascolta. Guarda che io su questo non scherzo. Guarda che io non scherzo su questo. Un anziano che tu non mi conosci. Tu non mi conosci. Io non scherzo su questo. Tu non mi conosci. Tu sai che. Ma io anche a te. Ma gli tiro una sberla. Ma come no? Gli tiro una sberla pure. Ma ti sfido a duello, coglione. Ti sfido a duello. Ma non c'è duello. Duello. Ascoltami. Ascoltami. Non ti preoccupare. Tu forse quello, non mi conosci, quello. Tu non mi conosci, se uno si professa nazista parlarne, per me parlare, merita parliamo, una sberla, merita una sberla, come voi facciamo? Merita una sberla. Aspetta, merita un attimo, voglio capire un attimo, tu sei un po' però, hai un qualche simpatia nei confronti del fascismo, caro Mauro? No, allora ascoltami, ti spiego una cosa, ti ripeto, se dobbiamo fare... revisionismo è un discorso, se dobbiamo fare un discorso no di ti sto chiedendo le domande le faccio io, tu le sei un tu, po' nostalgico del fascismo, sì o no? Io ho telefonato solo per difendere no ma là, ma che no, ma tu non ha bisogno di difendersi, dammi il numero che lo chiamo privatamente io. Aspetta, dammi dopo il numero, visto che l'hai lasciato al centralino. Mauro, mi chiamo privatamente, sei la un po' nostalgico, insieme. Sì o no? La chiariamo, non ti preoccupare. Sono nostalgico, assolutamente no. Non sei nostalgico. La, la chiariamo insieme, non ti preoccupare. Cioè, non dammi il numero di questo che la cosa, chiariamo. Guarda, la cosa che mi la chiariamo, dispiace, non ti preoccupare. La cosa che mi dispiace è che si la chiariamo riportare ad oggi un discorso di odio, ma che quello ma che dici, lasciamo perdere queste cose, non ma quello parlava di Hitler, del nazismo, diciamo privatamente, non ti preoccupare, la chiariamo io e te, la chiariamo privatamente, fermi tutti, tipi da zanzara, ed eccoci qua con Lorenzo da Milano, avanti tutta, dai Lorenzo, dai. Pronto? Dimmi Lorenzo, dimmi. Grande Cruciani, volevo un attimo commentare la signorina della Salaria. Sì, Susanna, sì, momento drammatico, momento drama. Che ha deciso di ritare, sembrava proprio una vittima, infatti Parenzo gli dava tutta ragione. Ma non riesco a capire, scusa, questa cristiana cosa ha fatto per 20 anni della sua vita? Si è vergognata? No, no, ma infatti non si è vergognata per niente, non mi pare che abbia ritrattato la sua vita. Ha detto che adesso, dopo quello che è successo, ha fatto alcuni ragionamenti su quello che, sulla sua dipendenza da questa vita, su che cosa può portare, secondo lei, fare la prostituta. Dice che fare la prostituta porta dei problemi mentali, eccetera, eccetera. Io su alcune cose non sono d'accordo, però vedendole dall'esterno, cosa... poi ognuno le vive sulla sua pelle, dunque no, ognuno fa carità, le sue scelte. Però punto la stessa e basta. Cosa che poteva essere il disturbo mentale, perché faccio la puttana, è. Mi accontento di prendere un uomo con i soldi che mi fa star bene al mare, perché? Perché comunque è sempre una puttana, perché ti accontento. Sì, vabbè, però ripeto, ogni discorso è le scelte personali non si possono discutere, cioè non è che si possono mettere in discussione le scelte personali, anche se frutto di alcune circostanze particolari, come possono essere gli incidenti, il fatto che ci siano alcune persone magari che si sono messe contro di lei, l'hanno speronata, diciamo così, o l'hanno ribaltata dalla bicicletta. Le scelte personali sono scelte personali, e dunque se lei dopo queste cose ha le ossa rotte, i figli che protestano, è andata dallo psicologo e si è resa conto che non vuole più fare questa vita, io che cosa posso fare? Certo, per me non è pazza, però lei ma io sono d'accordissimo con te quando mi dici, nel senso che il stare il adesso ci arrivo il diciamo stare pazza, nel senso che ho fatto la puttana, ho guadagnato dei soldi, però ho avuto tanti. Lei dice che non è vita, che vorrebbe una vita diversa, avere un uomo, una tranquillità, ed è esattamente il contrario di quello che diceva magari fino a due mesi fa. Dunque, se non fossero intervenuti gli incidenti e questi camion, queste macchine che l'hanno investita, probabilmente non sarebbe stato così. Però ti ripeto, quando si tratta poi di scelte individuali, anche se forzate da certe situazioni, non è che possiamo entrare dentro le scelte individuali delle persone. Non è che io voglio che resti a fare la puttana. No, se lei si trova da vivere in un altro modo, va benissimo. Se lei è contenta, è importante che una persona sia felice, nonostante i combattimenti che ci sono all'interno, nonostante il fatto che uno è combattuto, adesso guadagnerà di meno, probabilmente ha messo qualcosa da parte. Cosa vuoi che ti dica? Cioè, assolutamente, però la cosa che mi dà fastidio è proprio lei che diceva questa. Davide da Bologna, ma ho capito. Davide da Bologna, Davide, dimmi. Ma quali cazzo di scelte di vita? Ma di cosa stai parlando? Che cazzo stai dicendo? Che vuoi dire, ma Davide? Tu veramente pensi che lei, quando tornava a casa la sera, il figlio l'ha beccato, diceva: ma mamma, oggi quanti cazzo hai preso? 4, 10? Le cose vanno dietro, in maniera un po' diversa. Tu non sai un cazzo, naturalmente. La verità è un'altra, caro Bruno. Non sai un cazzo. Tu hai preso il privato di queste persone, le hai messe in pubblico, le hai messe in piazza. No, le persone hanno volontariamente deciso di parlare, per cui non rompere il cazzo. Avevano necessità di un momento di notorietà che le rendesse migliori rispetto a quella che era la realtà. Può darsi, ma non vado a indagare troppo nelle scelte personali. Mauro da Mantova è diventato un interventista. Che cazzo non è? Non più, amico mio. Ma questo parlando? Lo dice lui, è un interventista. Si è autoproclamato interventista. Mica... Lui è quell'altro cialtrone di spada. Tu hai creato dei mostri. Dunque... Io, tra l'altro, sono anche attratto da questi mostri. E allora che cazzo vuoi? Allora che no, vuoi? Aspetta, per esempio, ho sentito anche la discussione tra lui e Mauro D'Amato e Donato da Roma. Lo vedi che l'hai sentita alla fine? Ma la vedi, l'hai sentita alla fine? Mi faccio un sacco di risate. E allora basta, fermati. Ma fermati alle risate che ti fai senza rompere troppi coglioni, no? Non sono sullo stesso piano le due cose, Cruciani. In tu che devi senso? Prendere una persona, la persona come Susanna, come cazzo si chiama, non mi ricordo. Susanna che fa la prostituta, ma secondo te veramente i figli erano entusiasti? No, non so il rapporto, ma non erano mai entusiasti, non è mai stato detto che sono entusiasti. È facile marciare sui problemi della gente quando Davide. Loro... Davide, primo, nessuno ha costretto Susanna a parlare con me. Ma primo. Questo lo metti in secondo, dubbio, ma è ovvio che secondo, è un momento di notorietà. Vabbè, ma lascia perdere. Secondo, nessuno ha mai detto che i figli sono contenti. Anzi, al contrario, ha sempre detto che i figli è una cosa che hanno condannato, sì, che non sopportano. Ma mettere in piazza questa cosa, mi permetti un attimo che la cosa vada a peggiorare? Ma io non lo so, ma quello... Non facciamo parlare. Quell'altro biscio, quel serpente, che tra l'altro se n'è andato, pensavo stesse ancora in diretta. No, se n'è andato perché alla sette. Che dice, ora gli troviamo un lavoro. Ma vediamo, magari glielo trova, magari le trova un lavoro, magari le dà un'opportunità da qualche perché parte. Perché secondo te, per esempio, se ci fosse l'opportunità di prendere lei come badante a casa di Parenzo, ma che c'è? Magari non vuole fare la badante. Ma magari non vuole fare, magari non vuole fare la badante. Per dirne magari una, non, capisci? Ma magari non per vuole fare una. La badante. Ma vabbè. Enzo da Torino, non rompere il cazzo, Davide. Enzo da Torino, dai. Enzo, dimmi. Ciao Cruciani. Dimmi. Ti spiego la matematica applicata al Covid. Sì, e chi sei? Così impari qualcosa. Chi sei? Allora, venerdì. Chi sei? Un medico? Sei un medico? No, perché poi puoi dire la tua. Venerdì sei stato. Sì, ma non questa festa. Settimana, la settimana scorsa, cretino. Benissimo. La settimana sabato, prima. Sabato, benissimo. Sabato, dopo 8 giorni, quindi, sì. Hai fatto il tampone. Benissimo. È universalmente riconosciuto che il Covid si manifesta tra i 5 e i 14 giorni, quindi tu hai sbagliato. 7 giorni per cacarti addosso come stai facendo. Mi sto magari cagando addosso, sono tranquillissimo. Sono tranquillissimo, adesso. Sono la persona più più tranquilla del mondo, non mi sto cagando addosso. Lo immagino, si sente come ti cacchi addosso. Io. Aspetta altri 8 giorni. Ma aspetta a Giangrillo. Telefona Giangrillo per i prossimi 8 giorni. A chi e me poi la Svizzera? Ne parliamo. Ma non c'è problema, non mi sto cagando addosso, cretino. Impara tu, deficiente. Hakim, dimmi. Hakim. Sì, ciao. Cruciani, sì. È il ritratto della coerenza. In che senso? Ti spiego, 2 secondi, sì. Se mi rispondi seriamente. Però allora, fermo. Dimmi. Domani mi dici tutto. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Lei si sta sbagliando.